America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Siamo alla terza puntata di questo confronto, questo dibattito a distanza fra Stati Uniti e Europa. Armando Torno, grande critico italiano ed europeo, critico musicale italiano ed europeo, e Tommasini, Anthony Tommasini, critico del New York Times. Tommasini ha fatto una classifica dei primi 10 compositori della storia. Finora Italia, Europa e Stati Uniti si sono trovati d'accordo. Però comincio a introdurre una piccola nota forse di dissenso, perché Torno ha menzionato più volte Handel come un possibile terzo, come un possibile quarto, eppure do un'anticipazione, insomma devo deludere Torno, non compare in questa classifica Handel, ne parleremo con lui fra un minuto. Vediamo chi è al quinto posto di questa classifica dei più grandi compositori della storia. Al quinto posto Tommasini mette Claude Achille Debussy, il compositore pianista francese, dice, ha dimostrato dopo secoli di pulsante musica tedesca, appunto i primi quattro erano tedeschi, che poteva esserci tensione nell'eternità con il suo pionieristico linguaggio armonico, la bellezza sensuale del suo suono, l'istinto freudiano nel toccare l'inconscio. Debussy è stato il ponte di passaggio verso il tumultuoso ventesimo secolo di Debussy. Ascoltiamo Arabesque. Allora Armando, buongiorno, rieccoci. Buongiorno, Armando buongiorno. Torno ai microfoni America 24, Debussy al quinto posto, funziona? Per il critico del New York Times, indubbiamente, per le motivazioni che sono state dette, può funzionare. La sensualità, il collegamento con la psicoanalisi, con un certo decadentismo, era il musicista preferito da D'Annunzio, era il musicista che le dame, le signore, quando volevano violare, diciamo così, i buoni sentimenti, subito ascoltavano, facevano eseguire. Tuttavia Debussy ha un posto importante, un ponte importante nella musica europea, in lui si riassume Wagner, in lui si riassume tutto quello che è il travaglio tra 800-900. Non possiamo indubbiamente sottovalutarlo. Ripeto, personalmente io avrei scelto un musicista come Handel, l'ho ricordato, ma anche come Vivaldi, che in qualche modo ha portato di nuovo l'allegria nella musica, ha saputo spiegare le note dell'allegria, le note del tempo, le note delle stagioni, le note di ogni cosa. Certo, Debussy rappresenta un'epoca, un sentimento, un colore, se vogliamo. Ecco, voglio dirti Armando che né Handel né Vivaldi, che tu hai menzionato anche prima, sono in questa lista, non ci sono per nulla. E è una mancanza secondo te? Ma è una piccola mancanza, sì, perché occorreva un lieve omaggio all'Italia, e l'omaggio all'Italia lo avrebbero fatto certamente con Vivaldi, ma anche con Handel, perché tutte le sue cantate in fondo le forma a Roma. Handel è indubbiamente un sassone che però opera in Inghilterra e che si forma soprattutto in Italia. Sarebbe stato un omaggio alla patria della musica. L'Italia, piaccia o no, forse non ha delle grandezze come quelle di Bach, di Beethoven, di Mozart, però è la patria nella quale nasce, prospera, cresce e soprattutto si alimenta la musica. E del resto lo stesso Debussy ha preso molto dai compositori italiani, ha preso molto anche, diciamo così, dal nostro Cinquecento, ha pescato in Frescobaldi, ha pescato da molti autori italiani, anche lui ha dei debiti. Certo, Debussy è come, non solo Champagne, come le ostriche, è inimitabile. Qualora uno ha provato ostriche e Champagne una volta, anche se la ricetta è semplicissima, pensa che il massimo della vita sia quello. Debussy è un incantatore di serpenti, ha incantato anche D'Annunzio, immaginiamoci se non riuscirà ad incantare tutti gli ascoltatori della sua epoca e soprattutto anche i critici lontani. Io ricordo comunque che l'inquietudine forse del Novecento si trova più in Ravel, io non so se poi lo metterà in questa classifica, dico soltanto che Debussy è una scelta accorta, ma è una scelta che può lasciare qualche riserva. Tuttavia lo capisco e in qualche modo stimo anche questa sua furbizia velata, ecco, da scelta oculata. Ecco, Armando, io credo che devo fare una piccola rivelazione ai nostri ascoltatori, perché io ti metto ovviamente a confronto col critico del New York Times, con le grandi rappresentazioni del Metropolitan, però insomma mi devo cavare, consentimelo, un piccolo sassolino, perché come tu sai io ho recuperato per te più volte biglietti per la prima, per l'apertura del Metropolitan, e tu ogni volta trovavi una scusa che non potevi venire, Mario, forse un po' di snobismo. Bisogna che tu confessi in diretta a tutti gli ascoltatori che mi hai rubato tutti i biglietti per le Metropolitan. Io sono riuscito ad andare alla Metropolitan solo quando non ti ho avvisato, il problema è stato questo, però ti voglio un gran bene lo stesso, perché forse mi hai evitato delle opere bruttissime. No, adesso forse è vero, Armando, ma toglimi una curiosità, era per snobismo che poi non venivi dopo avermi fatto fare quelle fatiche, o perché avevi paura di volare? Qual era? No, allora vorrei che tutti gli ascoltatori lo sapessero, Mario mi avvisava poche ore prima dell'inizio della rappresentazione che avevo tenuto. Non è vero! E io non potevo partire, ovviamente. Quando lui era sicuro che era impossibile prenotare un aereo, mi telefonava. E questo è andato avanti per anni. Per anni ho dovuto barare, lottare con Mario, al quale, ripeto, voglio bene, ma al quale debbo rampognare anche questo atteggiamento e questo sabotaggio nei miei confronti. Passiamo al sesto posto in questa classifica. Al sesto posto viene Igor Fedorovich Stravinsky, il compositore russo naturalizzato francese, con quella storia straordinaria che ha avuto poi con Coco Chanel, una storia proibita, celebrata, insomma un compositore molto moderno, molto più avanti degli altri. Muore nel 1971, il più moderno fra i compositori classici. Giusto o sbagliato, Armando? Ma non è una cosa tanto contestabile. Si poteva scegliere o Schoenberg o Stravinsky, le due porte, Schiller e Cariddi della musica contemporanea. La scelta di Stravinsky è più oculata. Igor Fyodorovich Stravinsky, che muore tra l'altro a New York nel 1971, come ricordato, e hai fatto ascoltare L'Uccello di Fuoco, è praticamente la musica che in qualche modo spiega quello che sta accadendo, quello che stiamo vivendo, quello che sta succedendo. Del resto non dimentichiamoci che scrive anche saggi di filosofia musicale, nei quali espone le giustificazioni riguardo la sua visione della musica come suprema arte dinamica che non può essere mai rinchiusa in canoni prestabiliti. Addirittura diciamo quindi che lui è un musicista, un teorico, un filosofo e allo stesso tempo diciamo così anche un buon compositore. Tra l'altro L'Uccello di Fuoco che hai fatto sentire dimostra che l'uomo aveva del talento e che anche il Novecento può incantare con la musica. Non è che la musica sia soltanto un fatto arcaico del passato, sia soltanto un buon ricordo, sia soltanto il mondo dei sogni che ci corre in aiuto, è anche un fatto che stiamo vivendo. L'Uccello di Fuoco ha le nostre frenesie, ha le nostre tensioni, ha le nostre corse, ha i nostri dilemmi. E poi Stravinsky ha un'anima russa, ha un'anima francese, ha un'anima americana, ha un'anima globalizzata. Possiamo usare questo termine? Buona scelta, stavolta lo approvo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di classifica dei grandi compositori di tutti i tempi. Cerchiamo un contrappunto moderno e dunque vi faccio ascoltare la quinta sinfonia di Beethoven nel brano del musicista rhythm and blues americano Robin Thicke, When I Get You Alone. Oh, I swear something when she's pumping, asking for a raise. What does she want me to carry you home? Does she want me to buy a thing on my house?